Perché la cena è la cena, e bentornati alla cena dei regini. Questa è la cena dei regini, ragazzi. Un'altra settimana assieme, ricomincia qui la nostra trasmissione. Cena di chioccioldebacco.it per scriverci, www.debacco.it per seguire tutte le iniziative del sito e quello che organizziamo. Noi adesso iniziamo a mangiare e voi vi beccate la sigla. All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. E ragazzi, la cena dei regini, bentornati. Cena di chioccioldebacco.it per comunicare con noi adesso. Passiamo innanzitutto allo spazio delle notizie dall'Laos, quello che è successo in questa settimana. Abbiamo quasi finito Laos, manca strutturalmente solo un paio di vetri e qualcos'altro, un paio di mobili da mettere dentro, però per il resto ormai, ragazzi, ci siamo finalmente. Sta arrivando. Sentirsi come Darth Vader che vede la morte nera quasi completata. Infatti ogni mattina vado là con gli operai, il cappotto lungo nero, devo intonare la marcia imperiale, ed è molto bello gli che aliti sia nell'orecchio del... ragazzi allora che c'è? No, è raffreddore. niente. E ci siamo quasi, ormai siamo addirittura d'arrivo, e questa cosa è molto bella, molto importante. Già da questa settimana iniziate a parlare con gli artisti che verranno a suonare ad esibirsi alle nuove serate a Laos. Insomma, c'è un bel discorso, tanti bei progetti da rivedere, già belle situazioni anche collaborative, anche per i più piccoli, perché hanno scritto diverse persone che vogliono venire a fare intrattenimento per i ragazzini, e questa sarà una bella novità. Già il centro estivo ai tempi ha funzionato, bisogna riproporlo in versione ad maiora, sempre 3.0. Ovviamente sarò anche questa settimana in giro a un paio di feste a mettere musica, e questa qua è una cosa bellissima. Quindi andrò un po' a infestare le feste con la musica, mi porterò la musica anche della cena, quella là open in Creative Commons, in maniera da diffondere il verbo. Ragazzi, continuano anche le serate di gioco di ruolo da tavolo, queste serate in cui ci si riunisce intorno al tavolo, ognuno interpreta un personaggio e si scrive assieme così una storia improvvisando al tavolo. Grande novità, anche un progettino molto particolare che stiamo provando nel post cena in queste settimane, ed è una realtà nuova molto accessibile per tutti, che vedrete illustrata più in là. E poi che altro, salutiamo i ragazzi che ho incontrato in questa settimana, in particolare Lucia e Stefani, che era in un nuovo supermercato che hanno aperto a Reggio, e ci salutano tantissimo. Loro seguono la cena da casa, che sono due studentesse universitarie qua a Reggio. E poi grande coppia, Gianni e Monica, che ci hanno chiesto anche una canzone che gli manderemo alla fine di questo pezzo, e dice che loro sono una coppia da poco e ascoltano la cena assieme. Che bello. E dice: mettetemi una canzone. Gli ho specificato subito: niente che abbia a che fare con la CIA, eccetera, perché solo Creative Commons, lasciate fare a me, non vi preoccupate, ragazzi. Okay. E questa è una cosa bellissima. Ragazzi, ci aspetto una impegnativa ma fruttuosa settimana assieme, e quindi adesso questa canzone l'ascoltiamo tutte sere insieme a Gianni e Monica. Un saluto e a tra poco. So high, yeah. Tu cuerpo está en falla, tu baila y no desmaya, tu the early morning, yeah. You make me feel so high, yeah. Tu cuerpo está en falla, tu baila y no desmaya, tu the early morning, yeah. Sorry, ven mueve tu body, a mí me gusta cómo mueves ese booty, con ese vestido se te nota absolutely, no puedo negarla que tú eres piti. Yo subo al cielo con tan solo imaginarla. Es que es tan bella que no paro de soñarla. Sus ojos brillan como el agua de mi island. Baila conmigo, no me hagas esa vaina. You make me feel so high, yeah. This is for my lady. Me wanna see your body shaking. Mama give me love and love, bro, you make me crazy. Yo, yo, yo, this is for my lady. This is for my lady. This is for my lady. Me wanna see your body shaking. Mama give me love and love, bro, you make me crazy. Sabe lo que digo, negra, yo así te lo pido. Sabe lo que digo, negra, tú baila conmigo. Make me feel so high. Cena @back.it, prendi il mouse e buttalo dalla finestra perché stai già ascoltando la cena delle regine e quindi non hai bisogno d'altro, al massimo di mangiare qualcosina che hai portato davanti a te, stai sgranocchiando. Cena @back.it, l'ho detto per comunicare con noi, e www.back.it per seguire tutte le iniziative del sito. Passiamo allo spazio delle notizie, ragazzi, grandi, grandi notizie questa settimana, alcune storiche importantissime. La prima, risolto il mistero della ciambella su Marte. Dai. Il 21 gennaio c'era stato questo grande mistero, ritrovata una ciambella su Marte da un robottino che lo sta esplorando. E pare che è un mea culpa della stessa agenzia spaziale, che dice che secondo loro quella è un pezzo di roccia che il robottino stesso per un errore umano ha staccato da una roccia di Marte e quindi è finito là. Quindi voltandosi, girando, facendo le sue esplorazioni, dice se è staccato questo pezzetto e si è messo là. L'ho rimesso là. Sarà vero? Sarà un altro mistero destinato a durare? Secondo me c'era qualcuno là alla NASA che ha detto: cretino, quello l'abbiamo recuperato noi per mangiarci, la notizia mondiale, ma facciamo i tuoi, dobbiamo smentire. Ma poi vedi, gli americani dove vanno vanno, dove sbagliano sbagliano, esce pure una ciambella. Una ciambella. Cioè è la loro firma ormai. Sì, sì, infatti. Sono veramente incredibili questi ragazzi. Cioè non è dire, è uscito, perché se era un russo uscì un pezzetto di Tetris, se era un italiano un parrucchino un po' spennacchiato, invece allora la ciambella ognuno ha la sua. Però proseguiamo così, perché voglio dire, le notizie non si smentiscono mai, soprattutto quelle più strane. Ritrovato, scoperto, anzi riscoperto un tunnel che unisce Scilla a Ganzir, un tunnel sotterraneo scavato dagli antichi romani, fatto di un cunicolo abbastanza stretto e intervallato da delle stanze, delle camere di stoccaggio, che addirittura unirebbe le due parti dello stretto. E questa settimana andrò ad esplorarlo per la trasmissione. Beh, interessantissimo. Finalmente. Cioè, pensi, 2000 finalmente, anni fa, 2000 cioè, anni fa hanno unito qualcosa. Disse, facciamo il ponte sullo stretto. Sì, ma come il ponte ancora non fa? Facciamolo sotto. Sì, metti i soldi. E ci hanno già pensato i romani, e i romani l'avevano fatto. E quindi, ma scusa, qua a che profondità? Andare a esplorare. È una struttura molto ampia, e tra l'altro non è neanche l'unica, perché pare che in Sicilia ci siano diverse di queste strutture usate dai romani per il trasporto degli armi e dei militari. E quindi, insomma, pazzesco, dai, pazzesco. Voglio dire, tu visci? Storico. C'è un tunnel della Manica sotto, fatto dai romani. Grandioso. No, perché se tu dici che dicono non vogliono fare il ponte perché la Sicilia e il resto d'Italia si stanno separando, però c'è un tunnel di sotto. E quindi si sarebbe dovuto... Perché, beata ignoranza, i romani queste cose non gliene fregavano nulla e l'hanno fatto. Hanno scavato. Dire, fossa, non sono pro ponte, non me ne frega niente in realtà, però... 2000 anni fa l'hanno fatto, niente. Pensa tu, vedi, niente di Roma. È un po' come i cinesi che fanno tutte quelle cose a basso costo, fregandosene dell'inquinamento, e loro riescono a darti quella giacchetta a 2 euro e poi hanno ucciso qualche cormorano per arrivare a fabbricare. Però vabbè. Oddio, resta tutto il colorante addosso, però. Dettagli. Ragazzi, c'è chi vuole sempre rovinare la festa a qualcuno. È successo a San Valentino in Cina, dove un ragazzo disperatamente single è andato in un grande cinema cinese, appunto, per ed ha prenotato tutti i posti dispari del cinema per non permettere alle coppie di stare assieme. Cioè, questo genio del male moderno. Cioè, questo è l'abito della tristezza. È un genio del male moderno, voglio dire. Il suo losco piano è evitare che tutti avessero. Non ammazzato di botto, quindi. Spero di sì, perché avrò trovato una fidanzata dopo. Perché tra l'altro ho fatto perdere soldi al cinema, quindi. Pure il gestore locale avrà ammazzato. Beh, se è andato metà dei posti. Metà dei posti gli è andata, quindi voglio dire, sarà andata. Ma l'altra metà è rimasta così, quando magari col tizio da avere il pienone. Ma è un genio del male proprio per questo. La gente sarà andata in un altro cinema. E secondo me quello non è manco andato a vederselo. Pure stava là a godersi la scena di questa sala vuota. Ma ragazzi, l'amore è veramente una cosa imprevedibile, tranne che se lavori a Facebook. Il team di ricerca di Facebook, il team tra l'altro gestito su commissione dello stesso Zuckerberg, ha analizzato i post degli utenti, scoprendo che c'è un aumento dei post romantici prima di un rapporto amoroso e subito dopo c'è un calo incredibile. Come a dire che il profumo dell'amore si misura tramite i post su Facebook. Inizi quando c'è un mezzo filarino, una cosa, il mondo è bello, ragazzi sono felice, è la foto del gattino, è la cosa così, e poi dopo che tutte troie, tutte morite tutti. E meno male che c'è Facebook che ce lo dice, perché sennò. E lui sa, capisci? Zuckerberg riesce a capire quando sei un po' cottarello, quando c'è sto filarino e quando invece non ti sfida nessuno. Certo, e adesso lo userà per mandarti pubblicità e spam a perdere. Ovviamente. Tipo, quando sei innamorato, tipo pubblicità di fiorali, cioccolatini, a perdere. Dopo un po' che mandi post romantici, non è il momento di accasarsi. Vieni e prendi questa casa in affitto qui. Vai, sistemati ragazzi. E invece, se sei single da un po', ti consiglio un cinema nel quale comprare tutti i posti dispari, perché c'è questa, visto che c'è questa grandissima possibilità. Offerta speciale, tutti i posti liberi a metà prezzo. Ragazzi, le cose sono la tecnologia che domina su tutto, anche sulla fantasia, però la fantasia che a volte diventa tecnologia reale. Accadrà, secondo la Nike, nel 2015 si realizzeranno le famose scarpe autoallaccianti di Ritorno al Futuro. Cioè, questa previsione, già è stato fatto un prototipo l'anno scorso, che però non era esattamente funzionato al 100%, invece un dirigente della Nike ha rivelato che secondo lui nel 2015 sarà possibile acquistare le famose scarpe autoallaccianti. Anzi, risparmierai quei 10 secondi. Quindi avremo dei bambini d'ora in poi bravissimi nell'uso dei tablet, che non sapranno che i lacci si allacciano. Ma a me turba. Grazie Nike. A me turba ancora di più il momento in cui sicuramente ci sarà un meccanismo Bluetooth, dirà al tablet quando ti sta allaggiando le scarpe, e Zuckerberg dalla casa sua dirà: ecco, stai uscendo via di casa, ti stai vedendo con sta tizia, e quindi sarà tutto collegato alla tecnologia. No, comunque stanno studiando anche il fatto di sincronizzare le scarpe con internet, in modo da avere un tuo database personale per gestire anche il tuo allenamento. Cioè, tu tramite questo collegamento online registri quanti chilometri hai fatto, a che velocità sei andato, e il computer e Zuckerberg ti dice: ah bravo, oggi è andato bene l'allenamento, però settimana prossima acceleriamo. e poi quando smetti di allenarti vuol dire stai facendo altro e quindi lui lo rileva, lo rileva. C'è sempre questo grande fratello Marco, ma che fa? Marco, dai, non basta soldi, basta. Altra grande novità di quest'anno, grande novità, si chiama incredibilmente Dogecoin, sta spopolando su internet questa nuova moneta virtuale, simile al Bitcoin ma basata su Litecoin, un'altra moneta virtuale, e sta prendendo una diffusione incredibile grazie anche al suo logo, come dire, il suo testimonial, un cane di razza Shiba che praticamente è riportato sul logo della moneta e che praticamente fa da testimonial a tutta l'operazione. Collegandosi a questo sito è possibile creare, cliccando, delle monete virtuali, oltre alla possibilità di crearle col sistema del mining, quindi un programmino da scaricare e da far partire sul proprio PC. La particolarità è che grazie anche a questo testimonial questa moneta sta avendo un successo inaspettato, una diffusione grandissima, tanto che già esiste il cosiddetto Doge Market, cioè una community di persone che scambiano servizi e anche oggetti reali in vendita grazie ai Dogecoin. Tu pensa, vai su sto sito, clicchi il cagnolino e si vede il cagnolino che batte sul denaro, cosa carina, e aumenta il valore della tua permanenza sul sito. E poi c'è la possibilità anche di scambiarle, i Dogecoin, in Bitcoin, e poi fare i vari passaggi. Ovviamente ancora non ha nessuna valenza particolare, non ha un'importanza, diciamo, particolare, perché mi sembra che sia sui 0,00036 Bitcoin, cioè una cosa infima. Però no, purtroppo poco veramente, perché poi da là bisogna fare da Bitcoin il passaggio all'euro, non c'è la possibilità infatti di fare lo scambio diretto, però ancora è pochissimo. Quindi non ha un valore equivalente? Al momento no, al momento c'è solo lo scambio verso i Bitcoin e Litecoin, però in futuro chi lo sa. Beh, se già un market comunque. No, ha preso benissimo, e in futuro diremo ai nostri figli smettila di giocare, clicca il cane per farmi fare monete. Li adopereremo là. Papà, posso chiudere il mining che voglio giocare? No! Sciagurato! Clicca il cane che ci fa bene, dai. Cose da pazzi, però voglio dire, queste monete elettroniche diventando sempre più importanti. Ci piacciono, speriamo bene per la loro diffusione. Ragazzi, bollino rosso, perché adesso passiamo all'ultimo spazio, che è quello più particolare. Questa settimana piccante. Una notizia veramente piccante ed esplosiva. Innanzitutto il Current Sexual Health Reports. Current Sexual Health Reports. Cosa? È un istituto americano per lo studio della salute sessuale. Non solo ha sbugiardato quelli che sostengono che esista la dipendenza dal porno, ma anzi dice che il porno aiuta a liberarsi dalle limitazioni religiose e familiari della società. Cioè, tramite il porno tu hai questa evoluzione quasi mistica nella società che riesci a liberarti, cioè immaginare un mondo dove il postino e il pizzaiolo hanno più riscontro di un professionista, evidentemente ti fa sognare un mondo migliore, non lo so come funziona esattamente, e quindi ragazzi, incredibile. Sì, diciamo, se ecco, lo nuovi... scopo nella tua vita è quello comunque di vivere in un mondo del genere, sì, diciamo che ti fa vivere meglio che vedi già una cosa, esci di casa, vedi il postino, mattacchione. E quello con cazzo, postino vecchio, lurido, così era... lurido, che là è sempre o l'idraulico, a casa mia solo mia moglie non ti lascio, mamma mia, vado boh. L'idraulico dice mamma mia, ci dice oppure scende e fattillo tu. L'altro E poi ragazzi, grande, grande, importantissimo riconoscimento ad una donna calabrese. Lei si chiama Asia Morante, madre di Crotone, lei ha vissuto a Rende per tanti anni. Dopo una piccola esperienza da uomini e donne, ha iniziato una carriera nel porno e ha vinto quest'anno il Porn Awards 2014. Pensa, una calabrese, calabrese, ha vinto il Porn Awards 2014. Ma e facciamo un applauso a questa ragazza. Tanto è brava, non conosco i suoi figli. In piedi, perché... Dicevo, non conosco i suoi film, però mi documenterò, magari invitiamola. Assolutamente, bisogna farla avere il video e bisogna comunque invitarla nel mondo, vanno incentivati dei regimi, perché è da tanto che non assegniamo un premio naso, quindi ci vuole un riscontro, un premio in positivo. Asia Morante. Morante. Facciamo il premio Morante che suona un po' letterario, però ce le scogitiamo, si può fare, bisogna assegnare questa cosa, anche per dire che c'è questa idea della donna calabrese così un po' chiusa, un po' retro, eccetera, invece lei ti vince il Porn Awards 2014, ragazzi, voglio dire, che però non hai capito niente della Calabria. Naso, ripensaci Naso. Però una nota negativa, è dovuta andare a Milano per fare questo lavoro, quindi combattiamo la fuga dei cervelli dalla Calabria, perché questa è una fuga dei cervelli, cioè la ragazza per esprimersi mi è andata a Milano, quindi quanto prima. Spero che comunque si streghi le mani. Vabbè, comunque un appello accorato a tutti quelli che sono andati fuori per lavorare, per fare gli artisti, come in questo caso, dopo che fate fortuna, dopo che fate esperienze, tornate in Calabria, perché la Calabria ha bisogno. Asia, torna, perché la Calabria ha bisogno. Una piccola produzione di filmata, tu dici? Sì, si può fare anche qua, certo, puoi mettere, poi per esempio una bella spiaggia di diamante, questi luoghi un po' particolari, o con oppure, la via di spinning, amore nel tunnel, visto che c'è il tunnel sotto Asia, amore nel tunnel, il grande che successo, poi è bello, storico, tipo un video storico questo tunnel, quello che è successo dagli antichi romani fino ad oggi, quindi la coppia romana, la coppietta tipo anni 90 che andava là a fare i giochini, tutto questo. Asia, il film basta, è pronto. Vieni a girare, il film è pronto, sceneggiatura completa. Quello che dei soldi di storia ne abbiamo parlato un minuto, mentre del porno è mezz'ora che stiamo rimuginando sempre sulle stesse cose. Ma se la ragazza vince il Porn Awards 2014, ho capito, ma che cosa l'ha presa, mica i bitcoin l'hanno fatto in Calabria. Dopo lo guardiamo, ragazzi. Non con te, non caso. Che adesso vogliono fare le cose da di loro, capito? No, invece adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo con la nostra grandiosa classifica dedicata alle lo cose. Scoprirete tra poco. Trapped in that. Ragazzi, la cena dei regini. Passiamo alla classifica che voi assolutamente dovete commentare a cena@back.it perché è un argomento assolutamente di attualità. E parliamo proprio dell'evento mediatico di questa settimana, il Festival di Sanremo. Mitico Festival di Sanremo. Non abbiamo già visto le prime due puntate, perché oggi è giovedì, quindi... innanzitutto, ragazzi, cos'è il Festival di Sanremo? Spieghiamo. Stiamo infrangendo l'ottavo metallamento. Cioè, signora Sanremo. Dettagli. Bisogna invece promuovere, cioè, una manifestazione che serve a niente. Ma qualcosa. A niente, a qualcosa, quindi non si sa. È il festival della lamentela proprio. No, no. È di Maria De Filippi. Non so. È il festival della canzone italiana, ma mitica canzone. No, della canzone italiana, dove? Così dicono. Ah, fanno anche canzoni. No, no. No, lo presentano così, vedi. Io sapevo il festival della politica e della discografia italiana. Perché, scusa, quando c'è Berlusconi al governo ha vinto la De Filippi, è andata a fare il festival. Cioè. Oggi c'è il PD. Il PD è proprio il PD. E va Fabio Fazio. No, allora c'è il PD, perché prima c'era il PD, che però non andava bene. Allora il PD ha deciso che il PD non andava bene e ha cacciato il presidente del consiglio che era del PD e ne ha messo un altro che invece è del, che invece PD. È del PD. Ok, è chiaro. E quindi hanno messo Fazio. Sì, certo. Che è proprio... No, ma Basta, troppa politica. Lo vedi, troppa politica. Troppa politica. Ma che c'entra Fazio con la politica? Ma assolutamente, è solo uno che sta Rai 3, così. La rete di comunisti. Ah, ma dai, mi dettagli. Ha vinto Sanremo, quindi è ovvio che viene. Che ce lo diciamo a fare. Ma ragazzi, quindi il Festival della Politica e della Discografia Italiana, perché voglio dire, è un momento in cui le case discografiche possono sfruttare i soldi raccolti tramite la SIAE ed altre truffe legalizzate come quella, e quindi è giusto dare spazio a spese degli italiani a queste realtà. Certo. Ma ci sono stati 10 momenti fondamentali in cui il festival è stato davvero interessante. Questi 10 momenti iniziano dal Festival del 92, quando un tizio dal soprannome istrionico Cavallo Pazzo bloccò il festival condotto da Baudo saltando sul palco e urlando: il festival è truccato. Sì, vince Posto Leali. E quell'anno è arrivato nono. È truccato di così. È truccato perché doveva vincere lui, ma è stato rivelato e quindi hanno dovuto struccare e ritruccare. No, si vede che questo qua lavorava per la SIAE e quindi ha detto: il festival è truccato. E poi l'anno, ora gli sa che fa nella vita questo poveraccio. Vabbè, impiegato quindi, SIAE. Il festival è truccato. Alla numero 9, grande colpo di scena, Sanremo 1995, indimenticabile direi, l'aspirante suicida che è stato salvato dal Baudo dopo aver minacciato di buttarsi sulla platea. Si scoprirà solo settimane più tardi, mi sembra anche anni più tardi, che la scena era stata preparata settimane prima. Sì. E io qua mi immagino, cioè, al di là di tutto, poi preparato la scena, va bene, ma nelle prove che faceva? Cioè, tipo, diceva, va bene, adesso entra Naxa, e poi, no, questo è il momento del pazzo che si butta la cornicione, e poi facciamo entrare la pubblicità dell'acqua, testa d'oro e basta. No, le prove mi turbano. Va bene, dobbiamo farla anche noi sta cosa, quello che rischia di suicidarsi. Sì, sì, sì. Andrea, ma... buttati dalla serie. No, non adesso che se lo aspettano, però... vogliamo anche noi un finto suicida che venga qua a parlarci della sua storia. Mi sembra faccia scuola. Sali dalla sua serie. No, io già lo dovrei fare veramente. Andrea, parlavamo di suicidio e non di omicidio. Sì, se tu parli di suicidio, dove si aspetta il suicidio, mentre noi... con una forchetta. Con una forchetta può succedere di tutto. Ma al numero 8, invece, un po'... da bollino rosso, il vestito di Patsy Kensit, che nel 1985 tradisce la cantante e mostra una piccola parte del suo capezzolo, capisci? Nel 1985 un capezzolo fece la sua comparsa, la sua ospitata al Festival di San Francisco, ed è stato pagato meno di Fazio. Cioè, da lì la moda che poi lanciò Drive-In. No, 87 già c'era Drive-In, però Drive-In arrivava alla coscia, invece la Patsy Kensit arrivò al capezzo, infatti capezzo strapagato, però prese meno di Fazio di tanti suoi predecessori, che voglio dire. Penso, uno scandalo, grande scandalo, alla numero 7, altro grande piccolo scandalo mediatico, la farfallina di Belen a Sanremo 2012. Che duballe ci ha fatto la farfallina, sì, di Sanremo? Tutti che parlavano di cosa avesse sotto, e ce l'aveva lo slip, e non ce l'aveva per il zoma, la mutanda di plastica. C'era pure quella cosa di plastica che tiene su da sola, che era un plastico fatto da Vespa per il suo cioè, per poter apporto. Cioè, quella sera Vespa c'era il plastico della mutanda di Belen messa in quella maniera. Incredibile, guarda, un tatuaggio nel posto giusto col vestito giusto, guarda cosa ti fa. E tu ti ricordi solo quello di tutte le feste. Chi ha vinto quell'anno? La farfalla di Belen. Quella farfallaccia di Belen, mannaggia, guarda tu. Alla numero 6, altro piccolo grande scandalo mediatico, l'ombelico della Oxa a Sanremo dell'86, che sembra niente, però era l'86, e mi sembra che fosse una delle prime volte che si vedeva un ombelico femminile in televisione, pensa tu. La Oxa in quel momento ha... Ah, Oxa è sempre stata un po' avanti. Anche un po' disabile, però voglio dire, ha dato questo piccolo scandalo, un ombelico ai tempi, l'ombelico. E poi guarda, l'ombelico nell'86, la capezzo nell'87, farfallina nel 2012, quest'anno invitano la Siamorante oppure non succede niente interessante, cioè, ragazzi, anche perché le prime due serate, diciamo, sono state una noia. Nulla di particolare. Bella la canzone di Nessuno. Ma a me è piaciuta molto quella, però aspetto di sentire poi per bene, perché all'inizio Renga mi è piaciuta assai. Renga è quella tizia che si chiamava Noemi. Io le prime due puntate l'ho seguita, ma poi le patatine là, così, perché Tonella Ruggero, aspetta, ma se vi vede fuoco non fate cose più diverse. E i ricchi e poveri in quell'ospitata del 96. Bravo, esattamente. Sanremo, quindi comunque Renga vincerà, però non diciamo. Detto questo, alla numero 5, il pancione della Bertè a Sanremo dell'86, cioè, che ha fatto la Bertè, fa grande scandalo, ha portato un pancione finto, lei e tutte le ballerine, durante la sua esibizione. Perché? Solo per ricordarsi che quell'anno c'era anche la Bertè. Per dare quest'idea di femminilità che lei non ha di solito. Non ha, quindi devo dire, ragazzi, ricordatevi che anch'io sono donna. No, vabbè, grande, grande Loredana. Che tra l'altro è dalle onde delle nostre parti, Amara. Lei veramente, anche te, torna Loredana, ci abbiamo bisogno di buona musica, ci abbiamo bisogno. E perché lei per me? Lei? Andiamo avanti. La numero 4, grande, grande, non scandalo, però una cosa che colpì molto, colpì soprattutto la Hunziker, perché cadde nel Sanremo del 2007 colpa abito lungo e tacchi lunghissimi, ma soprattutto resterà alla storia Baudo che la va a salvare urlando è caduta la banca svizzera. Vero, vero. È caduta la banca, cioè e si la fa... poteva essersi rotta ma qualunque lui giustamente, ma magari la sua preoccupazione è quella. La banca svizzera, giustamente. Quando veramente non si è un vero jet, ma soprattutto un rodato animale da palcoscenica, quindi si può permettere anche queste uscite un po' particolari. Alla numero 3, grande da Sanremo dell'anno scorso, restò impresso un po' a tutti, la contestazione a Crozza. Crozza, un comico mattatore proprio, con delle idee politiche un po' di... sì, ha vinto Sanremo, quindi si può dire ha vinto Sanremo anche quest'anno, ma quindi anche l'anno scorso il PD era il governo, ma l'anno scorso faceva moda. Ah, ok, faceva tendenza. Andiamo con le tendenze. L'anno scorso lui, uscirsene fuori con la parrucchina di Berlusconi, per invitare Berlusconi, e la gente l'ha bloccato perché comunque ormai stanno a dire basta. Insomma, penso che... Sì, ma stato... alla fine se erano dei contestatori anche là, gente non pagata, ma comunque già vista. Dice, era nella scaletta, era fatta apposta, era nella scaletta pure questo. Dice, a questo punto prima dell'acqua a Montenegro passiamo alle contestazioni a Crozza, ma è giusto. E pensa però, il segnale era il parrucchino di Berlusconi. Cioè, non hanno scelto questa cosa, c'è sempre un nesso con le cose. Alla numero 2, secondo me veramente storica questa. Uno dei presentatori, Luca Bizzarri, sbotta a Sanremo 2011 quando gli ricordano che deve fare battute bipartisan. Mi sembra che era Baudo. Lui ha fatto una battuta così velata, così lui ha detto, Baudo gli disse no, bisogna essere un po' la par condicio, certo, eccetera, e lui ha avuto 2 minuti di esplosione totale, fantastica, tra l'altro. Oggi vende piadine sulla costiera romagnola. Ciao Luca, ci rimane nel cuore così. Però vabbè, è stato bello quest'uomo. No, è ancora nel top della forma. E ragazzi, alla numero 1, cosa che non succederà quest'anno, perché vincerà Noemi. Pure Ron partecipa, ma me lo sono perso questi due giorni. Perché giusto Ron. Vedi che vince. Ma te l'ha detto uno della CIA oppure uno della... Me l'ha detto il Polpo Paolo. Ah, era morto. L'ha detto in sogno. Fantastico. Alla numero 1, un altro grande scandalo. L'orchestra che a Sanremo 2011 straccia gli spartiti dopo la scusa di tale Malika. Aia. Cioè praticamente tutti quelli che meritavano di vincere, niente. Via. Sì. E ha vinto quell'anno? Valerio Scala. E secondo è arrivato Pupo. Pupo. Ed erano due cantanti che erano stati eliminati. E ce l'hanno fatta. E sono stati ripescati col televoto e hanno vinto, sono arrivati primo e secondo. E c'era il principe Filiberto. Mi ricordo. Lo scandalo è stato perché la giuria, no, la giuria, scusa, l'orchestra faceva parte della giuria, nel senso mm-hmm. votava le canzoni al 50% con il voto da casa. Mm-hmm. E quel 50% non è bastato a salvare Mario Caiane, che la sua canzone comunque ancora si ricorda, mentre le altre due che hanno vinto sono morte dopo due mesi. E musicalmente parlando erano molto più avanti, cioè non solo la canzone di per sé, ma anche l'arrangiamento, tutto, cioè era molto più avanti rispetto alle canzonette che hanno portato gli altri due che hanno vinto. E poi quindi è stato palese il fatto che comunque c'era qualcosa che non andava. Pensa tu. E da lì hanno cominciato a parlare di televoto che non funziona, di brogli con i call center. Che orrore, che orrore. Cioè hanno strappato gli spartiti. Gli spartiti di Pupo. Spero di un'altra canzone. Tipo Pu. È questa, me la suonate voi. Che cosa fantastica è il Festival di Sanremo. Cioè, dove gli spartiti si strappano, la politica vince. La discografia regna, cioè è bellissimo, è bellissimo. È un piccolo riassunto della musica in Italia, dell'Italia in generale. Dell'Italia in generale. Però a noi piace così. Io non lo seguo, penso. C'è un nuovo festival, chiamiamo il Festival di San Barca. San Barca. No! Bello, bello. Che battutacce, che però funziona. Uccidete. Nella prossima settimana Andrea si suiciderà volontariamente. E non scoprirai mai che ha vinto il Festival di Sanremo 2014. Mamma cioè, mia, sto morendo, ma adesso è fantastico così. Ragazzi, scriveteci a chiocciola, cena chiocciola il bacco.it. Vedi, sono stato anche così un lapsus, perché quando si parla troppo di Sanremo anch'io sbaglio il televoto. Cena chiocciola il bacco.it per contattarci, scrivere la vostra esperienza sanremese, perché tutti abbiamo visto un Sanremo prima o poi nella vita e poi siamo diventati persone adulte, ma soprattutto scriveteci il vostro rapporto con questa il Festival della politica e della discografia italiana, e noi ci vediamo tra un poco dopo uno spazio di vera musica libera con Mancrati. E ragazzi, questa era la cena dei Regini, anche questa puntata è andata, noi ci prendiamo le nostre cose e ce ne andiamo a casa, però c'è ancora un'altra settimana assieme, anche tu puoi essere ospite della cena dei Regini, come scrivendo a cena@back.it e raccontandomi la tua vita e perché vuoi essere ospite della cena anche tu. E quindi ragazzi, adesso ci aspetta una lunga settimana assieme, veniteci a trovare a www.back.it per sapere tutte le nostre iniziative. Qua già stanno sparecchiando, mi vogliono buttare fuori di casa perché c'è questa urgenza. Un saluto a tutti dal Back e dai ragazzi da Cena dei Regini e ciao! Ciao!